Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno da Montecitorio e dintorni, e con noi questa mattina il presidente della Commissione Cultura della Camera, Giancarlo Galan del PDL. Buongiorno onorevole Galan. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Lei ha visto che ci sono delle prime reazioni su questa proposta di legge che lei fa per le unioni omosessuali. Il cardinal Bagnasco si è detto contrario a questa proposta, ma voi andrete avanti lo stesso? Beh, io dal cardinale Bagnasco non mi aspettavo nulla di diverso e oltretutto rispetto moltissimo il suo punto di vista, che è quello della dottrina della Chiesa. Ci mancherebbe altro che avesse detto qualche cosa di diverso. Però il compito del cardinale Bagnasco è diverso dal compito dei politici. Lui parla di vulnus. Ecco, io penso al vulnus di diritti di uguaglianza che finora c'è stato ai danni di chi si lega in una unione omosessuale. Lei parla ovviamente solo di unioni civili tra omosessuali senza adozione, giusto? Questa è la sua proposta. L'ha riassunta molto bene. Non parlo di matrimonio, proprio per non urtare certe suscettibilità. Non parlo di adozione anche per un motivo in più, e cioè che il capitolo delle adozioni in Italia dovrebbe essere integralmente riscritto, quello di tutte le adozioni. Ecco, si è fatto un'idea di quello che sta succedendo in Francia? Cosa potrebbe succedere in Italia qualora fossero approvate queste misure? Ma è quello che è successo in Francia, che sta succedendo, mi colpisce. Io sono convinto che in Italia non succederebbe nulla della stessa entità. D'altra parte, quando si sono affermati quelli che io chiamo diritti, che altri possono chiamare con nomi anche assolutamente in contrasto, ma quando si approvò la legge del divorzio, le tensioni furono fortissime, ma poi il referendum confermò la volontà, con la volontà popolare, quello che il Parlamento aveva sancito. Quando si fece la stessa cosa su un tema ancora più delicato, quello dell'aborto, avvenne la stessa cosa senza incidenti, senza violenze che non ci dovrebbero mai essere. E comunque, dal mio punto di vista, c'è un diritto da riconoscere, c'è una libertà da dare e non ci si può fermare di fronte alla minaccia di qualche reazione. E con il suo progetto di legge che cosa succede? Due persone dello stesso sesso possono andare in comune e stipulare una sorta di contratto? Possono fare quello che alle coppie eterosessuali è concesso, fanno una forma, fanno un contratto con forme più semplici, molto più rapide del matrimonio civile, però ci sono le pubblicazioni, ci sono tutti gli istituti previsti dal matrimonio civile, tutte le conseguenze, tutti i doveri. Quindi anche, per esempio, se una persona poi si separa, che succede? C'è il regime patrimoniale che hanno scelto e quando si separano si hanno le conseguenze che si hanno anche con lo scioglimento di un matrimonio civile. Tutta onestà, semplifico, e il periodo da aspettare, che è ancora di 3 anni in Italia, che considero uno sproposito, è ridotto a 3 mesi. Ecco, quindi questo per le unioni omosessuali. Lei ha detto una cosa che invece è importante. Per le unioni civili che cosa bisognerebbe fare? A quanto bisognerebbe ridurre questo tempo di attesa? No? Sappiamo che ci vogliono 3 anni di separazione per poi divorziare. Per lei? Beh, esprimo una mia opinione personale, che però ha una certa condivisione. Secondo me il periodo giusto è 1 anno. Ma è una convinzione mia personale, ognuno può essere anche di idea opposta. Però il Parlamento nelle scorse legislature bocciò questa proposta, si ricorda, sul divorzio breve? Me lo ricordo, è come se non me lo ricordo, però c'è sempre un tempo per tutte le cose, no? Il divorzio non è mica stato applicato nella preistoria, la legge 194 fu una conquista dopo molti, molti anni, e ogni cosa viene a suo tempo quando matura la coscienza civile, quando si creano le condizioni sociali e anche politiche per poter, dico io, effettuare una conquista. Ecco, lei parla di divorzio appunto breve di 194, ma nei banchi del PDL siede anche l'autrice della legge 40. Lo so, è il bello La di un Roccella, l'onorevole Delia Roccella. Roccella, ex radicale, fra l'altro, ma è questo il bello di un grande partito occidentale in un sistema bipolare. Convivono posizioni e convinzioni diverse. Quella mia di forte ispirazione liberale è per molti versi in contrasto con quella invece tradizionalista che la Roccella, Carlo Giovanardi, tantissimi altri, per l'amor di Dio, esprimono. Ma io sto bene con loro nello stesso partito, io sto bene con Maurizio Sacconi, nonostante esprima tesi su questi aspetti assolutamente diverse e lontanissime dalle mie. Quindi darete libertà di coscienza? Ma su questi temi, su quelli delle libertà civili, dovrebbe essere sempre presente il principio della libertà di coscienza, ci mancherebbe altro. Ecco, quello che non mi piace di altre posizioni è questa collocazione di partito. Eh no, qui è un problema di individui che si schierano con le loro idee, le loro convinzioni, i loro errori anche. Perché no? E decidono come individui se è giusto o sbagliato. Quelle che io rivendico sono libertà, per l'individuo, non si vuole obbligare nessuno a seguire quella via, a nessuno a fare qualcosa, si vuole dare a chi invece lo sceglie una libertà in più. E quindi anche i parlamentari devono essere assolutamente liberi di fare quello che la coscienza detta a loro. Senta, onorevole Galan, lei è presidente della Commissione Cultura. Ci può dire se sono allo studio magari degli sgravi fiscali per gli imprenditori teatrali oppure per i registi cinematografici? Insomma, se qualche cosa è allo studio per far sì che la nostra cultura non venga abbandonata dalla politica? È allo studio quello che è sempre stato allo studio, io lo ricordo, sono stato per un brevissimo periodo, 6 mesi soltanto, 8 mesi, ministro anche della cultura. E la battaglia fu soprattutto economica con l'allora ministro dell'economia, Giulio Tremonti, che stringeva sempre i cordoni della borsa. Ecco, convinto come sono che con la cultura si mangi e soprattutto si mangerà nel futuro, se la sappiamo coltivare, curare, valorizzare, e io credo che due siano le cose su cui occorre operare. Uno, un complesso di sgravi fiscali, di una fiscalità di vantaggio, che aiuti in un paese come l'Italia, prima potenza al mondo in fatto di cultura, che aiuti chi vuole dare il suo contributo. Secondo, una fiscalità o un'opportunità per davvero di coinvolgere i privati nella gestione e nella tutela e soprattutto nella valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, ambientale. Un vantaggio vero però, perché ci sono coloro che lo fanno solo per filantropia, ma insomma il privato deve avere un interesse anche economico ad investire in cultura. L'avversario, se mi si può passare questo termine forzato, sarà ancora una volta la parte economica, chi invece Il pensa ministro al dell'economia. canto delle entrate. Senta, l'ultima cosa, flash, ha visto è stato abolito il finanziamento ai partiti, però Beppe Grillo dice che è una presa in giro. Ognuno è libero di pensarla come vuole. Mi aspettavo da Grillo, al quale non si può fare ammenda di intelligenza, perché che sia intelligente nessuno lo pone in dubbio, mi aspettavo qualche dichiarazione un po' più intelligente. Allora ringraziamo l'onorevole Giancarlo Galan, ricordiamo presidente della Commissione Cultura, abbiamo sentito le sue proposte e noi vedremo se le attuerà. E ricordiamo del PDL. Arrivederci. Buongiorno, arrivederci.